GR Europa. L'Unione Europea prende nota delle discussioni in corso tra India e Italia sulla crisi dei Marò del San Marco e continua a sperare che una soluzione accettabile per entrambe le parti possa essere conseguita attraverso il negoziato. Così questa mattina a Bruxelles, portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, Catherine Ashton. Per ovvie ragioni, ha proseguito l'esponente britannica, posso dire molto poco. Siamo in contatto col governo italiano, con l'ambasciatore italiano in India, con il nostro ambasciatore in India. Sono in corso colloqui tra Italia ed India e dobbiamo vedere come vanno. Così Catherine Ashton, appunto l'altro rappresentante, ha risposto a una domanda sulla crisi italo-indiana. Slitta domani il voto del Parlamento cipriota che deve ratificare il piano di salvataggio di 10 miliardi di euro negoziato con la UE, che ha chiesto in cambio una tassa su tutti i depositi bancari. Il servizio. La crisi finanziaria cipriota sta scappando di mano. L'accordo politico raggiunto nella notte tra venerdì e sabato su un salvataggio sovrano di Cipro è già oggetto di gravi e incalcolabili incertezze. La decisione di tassare i depositi ciprioti con aliquote che vanno dal 7 al 10% ha provocato reazioni di rabbia nella piccola isola mediterranea. Il governo cipriota sta valutando in queste ore un cambiamento delle aliquote in modo da rendere il pacchetto socialmente più accettabile. Corre voce che ci potrebbe essere questa sera una riunione dell'Eurogruppo per valutare i termini di un nuovo accordo. La Commissione europea da Bruxelles ha spiegato che cambiamenti sono possibili purché la tassa raccolga l'ammontare previsto, circa 6 miliardi di euro. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E naturalmente continueremo ad aggiornarvi su questa vicenda. Intanto la Commissione europea ha dichiarato di attendersi che l'Italia pronti un piano di smaltimento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione verso le imprese su una durata di 2 anni, un piano al quale riconoscerebbe i cosiddetti fattori mitiganti nella valutazione di osservanza delle regole UE di bilancio. Lo ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani durante una conferenza stampa questa mattina a Roma. Noi sollecitiamo un piano in tempi brevi, ha detto Tajani, la forma poi è prerogativa del Paese. Ma aggiunto, ricordiamoci che parliamo della terza economia dell'area euro ed intervenire rapidamente sarebbe quindi importante per ridare fiato alle imprese, evitare fallimenti e fare ripartire l'economia. Bene, con questo chiudiamo l'appuntamento con GR Europa. Oggi in regia Filippo Aureggi, Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento con GR Europa come sempre domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.